GR Europa. Nelle coppie omosessuali, i partner devono avere il diritto ad adottare i figli dei compagni, così come avviene per le coppie eterosessuali non sposate. Lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti Umani in una sentenza emessa su un ricorso presentato da una coppia di donne austriache e dal figlio di una di loro. La sentenza, definitiva perché emessa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, riguarda l'Austria, ma i principi valgono per tutti gli altri 46 stati membri del Consiglio d'Europa. E ora in Africa. Il sostegno alle truppe del Mali da parte della Germania è dovuto a ragioni di politica di sicurezza, lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle, motivando l'estensione dell'impegno in Mali col timore del terrorismo. Tutto questo nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato la possibilità di prevedere un impiego fino a 330 soldati nel paese africano. Allora, sulla crisi che racconta appunto la vicenda maliana, sentiamo il relatore speciale ONU ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi al microfono di Giampaolo Musumeci. L'Europa deve farà di più, però lei non deve parlare solo del Mali come isolato. I problemi del Niger e del Mali sono simili. In Mali c'è stato una rottura e un'occupazione, ma i problemi dello sviluppo sono di tutta l'area. E certamente 250 milioni di euro non bastano, anche se sono un bel esempio da parte europea, che se fosse seguito da tutti darebbe una somma assai maggiore. Quanto dovrebbe aggiungere l'Europa, secondo lei, rispetto a questa cifra? Guardi, io credo solo in piani, in progetti che si prolungano lungamente nel tempo. Cioè nella mia testa, nella testa dei collaboratori che con me lavorano, non c'è una donazione di un anno, ma c'è un impegno di opere pubbliche, di interventi di tutti i tipi, sull'istruzione, sulla sanità, sull'agricoltura, soprattutto sull'energia distribuita, che devono avere un lungo spazio temporale. Il 2013 è iniziato con un quadro più stabile, ma non c'è ancora nessun miglioramento per l'economia reale. Anche in Italia le banche cominciano a soffrire la lunga recessione. Così Mario Draghi ieri in una lunga audizione al Parlamento europeo. The fiscal consolidation, especially for countries with high debt. Smorza le speranze il presidente della BCE Mario Draghi su possibili margini di manovra all'interno dei conti pubblici per i paesi altamente indebitati, al di là anche delle promesse elettorali. Intervenendo all'Europarlamento, Draghi afferma il consolidamento fiscale per i paesi ad alto debito è inevitabile. Questo porta ovviamente a effetti di contrazione nel breve periodo. Il punto quindi non è posticipare il consolidamento fiscale, ma mitigarne gli effetti puntando sul taglio delle spese anziché su maggiori tasse e premendo sull'acceleratore delle riforme strutturali. Il quadro che il presidente della BCE delinea da Bruxelles è tutt'altro che roseo. Pochi margini dunque per manovre di spesa e pochi margini per un allentamento delle manovre di messa in sicurezza dei conti all'interno di un contesto dell'economia reale che afferma non migliora nonostante alcuni segnali di stabilizzazione. E il presidente della BCE ha parole anche per l'Italia, in particolare per le banche della penisola. Il sistema bancario italiano si è dimostrato solido alla crisi, ma oggi soffre dell'esposizione alla prolungata recessione. È lì che le sofferenze aumentano e mostra la sua fragilità. Infine Draghi non risparmia un commento sul caso Monte dei Paschi. Non è una questione soltanto di gestione bancaria, ma anche di attività criminali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima vittoria del commissario europeo al clima, Connie Hedegaard, nella sua battaglia per aumentare il costo della CO2 sul mercato europeo del carbonio, l'ETS. La Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha approvato oggi a Bruxelles la proposta presentata novembre scorso dall'esecutivo UE di congelare la messa all'asta di 900 milioni di quote di emissioni del sistema ETS, appunto. Per Hedegaard è un voto chiaramente positivo. E con questo è tutto per GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, appuntamento domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.